Non so né quando né come si sia instaurata la tradizione che vorrebbe imprigionare a Natale, Capodanno, giù di lì, il sesso femminile in slippini rossi. So che si tratta della solita, della solita falsa tradizione inventata, costruita e sorretta dalle comunicazioni di massa per far sì che appunto le masse comunichino mediante merci, consumando che sia d'altro, oltre a se stesse. Fatto sta tuttavia che dai manifesti pubblicitari e dalle vetrine di biancheria intima si offrono immagini turbolente della miglior mercanzia sessuale femminile in versione rigorosamente rossa: mutandine pizzose, reggiseni, reggicalze, gaipier, body vaporosi o evaporati, tutto quell'armamentario che, se nell'immaginario di qualcuno forse trionfa, nella mia modesta esperienza rimane intoccato ed altamente improbabile. Al servizio di questo complesso quadro ideologico debbo annoverare quelle che, almeno per me, costituiscono a livello di cronaca due novità curiose. Si tratta di due supporti, perché, come ben si sa, il valore espositivo di una mutanda è direttamente proporzionale all'esposizione del contesto in cui quella mutanda sarà chiamata a funzionare. All'uopo, non a caso, sono stati inventati e via via perfezionati i manichini, chi con gli occhi colorati, con i volti diversificati, con le acconciature, con i seni, con i capezzoli, con l'ombelico magari in verticale, come dice Desmond Morris nei suoi libri di zoologia umana, con il monte di Venere, manichini sempre più analitici in rapporto alle esigenze non tanto della merce, ma di colui che di quella merce deve usare, assecondando i paradigmi comportamentali imposti. Se è dunque ovvio e prevedibile riscontrare uno o più manichini in una vetrina di abbigliamento intimo femminile, è meno ovvio e meno prevedibile che di quel corpo se ne riscontri un'estrema parcellizzazione. In una vetrina di Corso Buenos Aires, infatti, ho trovato non solo il moncherino umano modellato perfettamente per indossare soltanto un paio di succintissimi e rosso lussurioseggianti slip, ma l'ho trovato anche in coppia con un altro moncherino che degli stessi slip consentisse la visione della parte solitamente oscura e forzosamente trascurata. Perché è vero che qualsiasi mutanda in quanto tale è costituita sia da un davanti che da un di dietro, ed è altrettanto vero che, per ragioni storico-culturali che qui sarebbe troppo lungo raccontare, il di dietro di oggi ha guadagnato tante azioni quanto il davanti di ieri. E così, in piena metafora antropofagica, il corpo è ridotto ai suoi bocconi più ghiotti, ed è inutile dire che di mutanda vera e propria in termini di stoffa in quel di dietro ce n'è rimasta poco o nulla, ovvero un lembo risucchiato da rigogliose natiche voraci. Poco lontano, in una viuzza adiacente, ho trovato subito il palliativo. Anche lì, osando un'interpretazione estensiva e riduttiva ad un tempo di Babbo Natale, mutande e reggiseni rossi a profusione, ma né adagiati sul ripiano, né appuntati alle pareti, né tantomeno indossati da manichini o da loro autonomi segmenti. Di lì diciamo che non era ancora passato il macellaio. Ho fatto fatica a capire perché reggiseni e slip erano indossati da un cuscino scuro o un cuscino chiaro, un cuscino dal quale per colore risaltassero, no? La questione si fa complessa perché il contesto è andato a farsi benedire. Né ci sono i segni, né gioco forza i capezzoli, né il monte di Venere, né le natiche, né l'attaccatura delle gambe, no. Ma non si tratta, a mio avviso, né di una versione edulcorata di ciò che con il sesso ha un'ovvia attinenza, né di una versione più rispettosa di chi di quel sesso è portatore. Anzi, il fatto stesso che reggiseno e slip figurassero indosso al medesimo cuscino, a quella medesima deformità e informità, minimo sfondo di tanti e tali distinti, testimonia della necessità del loro rapporto. Quel che davvero si vende, il morboso trafficare in un corpo offerto e pur nascosto, è mera rappresentazione simbolica. Sono funzioni e non cose. Esaltazione di un mentale collettivo malato e depressione di un fisico sano individuale. Per goderne basta segmentare mentalmente il corpo femminile, ridurlo a quei brandelli che ne specifichino la sua sottomissione e tramandarlo sotto forma di segni, delle sembianze corporee e delle loro proporzioni. Per il basso scopo si può fare serenamente a meno. Non si meraviglino poi i moralisti se qualcuno non si accontenta più dopo un po' di una segmentazione semplicemente e asetticamente mentale. E non si meraviglino neppure questi moralisti se una buona percentuale di questi insoddisfatti è costituita da loro stessi.